Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Questa è la puntata numero 65 di Mebius. Benvenuti e benvenute all'ascolto. I titoli ora degli argomenti che tratteremo questa sera. L'età non c'entra con la vecchiaia. Nuove ricerche puntano a stabilire quanto e come invecchia il nostro corpo. Entomologia forense, ovvero come gli insetti entrano a far parte delle indagini poliziesche. Che le donne fossero più emotive, la ricerca l'aveva già verificato. Adesso si sta anche dimostrando che reagiscono più degli uomini agli stimoli sociali. Gli antichi organi delle chiese sono come un ecosistema e risentono di mille fattori. Un sistema di sensori eviterà che questi antichi strumenti scompaiano. Sono stati immortalati per la prima volta. L'obiettivo è quello di Hubble, il telescopio spaziale, e i soggetti sono i pianeti extrasolari. Chi sono e come si potrà osservarli in futuro? Le quattro forze fondamentali della natura. Unificarle è importante, dicono i fisici, ma per quale ragione? Ce lo spiega il premio Nobel David Gross. Continua il nostro viaggio nei temi dell'innovazione. La domanda questa volta è la seguente. Se tutti sono d'accordo che è fondamentale, perché tutti dicono che non si fa? Da un punto di vista biologico, l'età anagrafica non è direttamente legata all'età biologica. Ci sono persone calve a 25 anni e settantenni con chiome robuste. Ci sono persone con l'artrosi a 40 anni e altre che non la manifestano mai. Una ricerca del Buick Institute, centro statunitense specializzato nella scienza dell'invecchiamento, identifica una serie di temi centrali in questo campo. Può sembrare singolare che per analizzare diversi fattori di invecchiamento questi ricercatori abbiano lavorato sui nematodi, ovvero dei vermicelli, e in particolare sul C. elegans, nematode spesso al centro della ricerca biologica. Vermicello che ha la caratteristica di vivere 3 settimane e di presentare molte diversità fra i vari soggetti nell'arco del pur breve loro intervallo di vita. C. elegans è lungo poco più di 1 millimetro, però possiede alcune caratteristiche di fondo di molti animali, un apparato per inghiottire ad esempio, si nutre di batteri, non ha occhi, vive sottoterra, però si è capito che sente odori e registra differenze di temperatura. È composto da circa 1 migliaio di cellule, ma il suo patrimonio genetico è intorno ai 19.000 geni, la metà quasi del patrimonio umano. Ha un sistema nervoso sviluppato che è ben conosciuto ai biologi. Al centro di questa ricerca sull'invecchiamento, naturalmente, molte analisi genetiche. Il passaggio cruciale, infatti, è collegare certe carenze fisiche che insorgono con il passare del tempo a predisposizioni genetiche. Lo studio si è anche spinto nel verificare, sulla base dei risultati ottenuti, le capacità di previsione relativa all'età dei C. elegans indagati. Basandosi su dati ricavati solo dalle analisi di alcuni geni, i ricercatori sono riusciti a determinare l'età di singoli esemplari nel 70% dei casi. Questo vuol dire che, insomma, a partire da analisi genetiche si riesce, senza sapere l'età reale appunto di questi vermicelli della colonia di C. elegans, si riesce a prevedere nel 70% dei casi qual è la loro giusta età. Lo studio si è anche spinto nel verificare, sulla base dei risultati ottenuti, le capacità di previsione relative all'età dei C. elegans indagati, alla comunità, alla colonia di C. elegans che era appunto sotto osservazione. Basandosi su dati ricavati solo dalle analisi di alcuni geni, i ricercatori sono riusciti a determinare l'età di singoli esemplari nel 70% dei casi. Questo genere di studi è ovviamente di cruciale importanza per sviluppare le terapie anti-invecchiamento. Entomologia è la scienza che studia gli insetti. Forense vuol dire che abbiamo a che fare con tribunali. Quindi entomologia forense è una definizione che ci rimanda al ruolo che gli insetti possono avere in certe indagini giudiziarie e poliziesche in genere. Barbara Gallavotti vi parla ora di questo tema che è al centro di un libro e certo, come non ricordare quel magico e raccapricciante thriller Il silenzio degli innocenti, ecco, vi ricordate, al serial killer si arriva grazie a delle farfalline. Chi è il soggetto? Hannibal Lecter, lo psichiatra. Hannibal il cannibale. Fai solo il tuo lavoro e non dimenticare mai chi è. Perché? Che cos'è? È un mostro. Dottor Lecter, mi chiamo Clarice Starling. Posso parlare con lei? Jack Crawford deve avere davvero molto da fare se è costretto ad assumere degli studenti come aiutanti. È occupato a dare la caccia al nuovo arrivato a Buffalo Bill. Quanto è cattivo quel ragazzo. Avete riconosciuto Il silenzio degli innocenti? Probabilmente la prima cosa che viene in mente alla gran parte di noi profani quando sentiamo associare insetti e delitti. Gli esperti però distinguono. L'entomologia forense è la disciplina che utilizza ad esempio gli insetti tipici della decomposizione come orologio biologico per stabilire il tempo della morte di un cadavere. Nel film invece l'assassino poneva come firma una crisalide nella bocca delle vittime, che è tutt'altra cosa. All'entomologia forense, quella vera, è dedicato un libro appena uscito, Entomologia forense, gli insetti e le indagini giudiziarie medico-legali. Il volume, a dire il vero, si rivolge a tecnici e persone che lavorano nel campo, ma abbiamo chiesto a uno dei suoi autori, Paola Magni, di introdurci all'interno di questo campo decisamente originale. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Paola Magni è una giovane naturalista che dopo essersi specializzata appunto in entomologia forense ora svolge attività di consulente, in particolare presso la ASL Torino 1. Io le chiederei subito, ma di cosa si occupa veramente l'entomologia forense, visto che non ha niente a che fare con quello che abbiamo visto nel film? Beh, attualmente l'entomologia forense viene suddivisa in tre grandi branche, che sono l'entomologia medico-legale, che si occupa di reperire quelle informazioni interessanti da insetti presenti su corpi morti, come carcasse e cadaveri. Poi c'è l'entomologia dei prodotti immagazzinati, che indaga sulla presenza di insetti in beni conservati e in particolare in beni alimentari. E l'entomologia urbana, che si interessa invece di quegli insetti che infestano i luoghi abitati dall'uomo. In realtà poi bisogna sottolineare che nel tempo si sta sempre di più delineando anche un altro aspetto, che è quello dell'entomologia forense veterinaria, che in particolare è utilizzata quando gli insetti si presentano su una scena del crimine in cui le vittime sono animali. Ad esempio nel nostro laboratorio abbiamo collaborato alle indagini relative all'uccisione degli orsi nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, l'Asse Molise. Ci puoi fare un esempio di un caso giudiziario risolto grazie agli insetti? Allora, prima di tutto voglio sottolineare che gli insetti non risolvono casi criminosi, come in realtà non lo fanno né il DNA né gli altri elementi. È sempre la collaborazione positiva tra le diverse figure professionali come il pubblico ministero, il medico legale, la polizia giudiziaria e tutti i consulenti tecnici che portano poi alla risoluzione reale del caso. Un esempio si è avuto a Torino d'estate, quando è stato rinvenuto il corpo in avanzata decomposizione di una giovane donna. Questo era coperto da un tappeto e abbandonato sul ciglio di una strada in città. Il medico legale ha identificato le cause di morte, mentre i carabinieri hanno dato un'identità alla donna grazie a un'impronta papillare difficilissima da recuperare. Gli insetti invece sono stati utili per identificare il tempo di morte. Inizialmente infatti si credeva che l'assassino fosse un uomo, ma il tempo di morte individuato grazie allo studio degli insetti ha fornito un alibi a quest'uomo e anche ad un altro sospettato. Quindi il pubblico ministero ha continuato le indagini insieme ai carabinieri ed è stato individuato addirittura un terzo uomo che proprio nei giorni identificati dagli insetti aveva avuto a che fare con la donna e c'erano delle tracce sul cellulare della donna. Ora questo assassino ha confessato e resterà in prigione per i prossimi 30 anni, quindi gli insetti hanno sicuramente aiutato in questo campo. E soprattutto hanno scagionato gli altri due. Sì, esatto, devono ringraziare gli insetti, incredibilmente. Però gli insetti sulla scena di un crimine, oltre ad aiutare, possono anche essere di ostacolo, confondere un po' le prove. Sì, esatto, perché la loro attività è talmente devastante su un cadavere che in poco tempo rimangono poche parti molli e le ferite, per esempio superficiali, vengono sfalsate dalla loro attività. In compenso, gli insetti che si nutrono proprio del corpo immagazzinano all'interno del loro corpo anche molte informazioni. Ad esempio, all'interno degli insetti è possibile identificare le tracce delle sostanze stupefacenti, farmacologiche, psicotrope o comunque tossiche di cui aveva fatto uso, cui è entrato in contatto l'oggetto, la vittima, uomo o animale che fosse, durante la vita. Addirittura il DNA delle persone o degli animali di cui si sono nutriti e addirittura le tracce di piombo, di bario, quindi residui di polveri da sparo all'interno degli insetti. Quindi sapendo in realtà leggere la chiave biologica lasciata dagli insetti è possibile ottenere una grande quantità di informazioni estremamente utili. Beh, venendo a casi meno drammatici, sempre gravi ma meno drammatici, come quelli che hanno a che fare con le sofisticazioni alimentari, che mi sembra che sia il secondo settore a cui lei accennava, può farci un esempio di come gli insetti trovati in alimenti ci possono dare informazioni utili? Sì, purtroppo a volte capita che questo mantenimento dei prodotti alimentari non sia corretto e che le norme igienico-sanitarie non siano ben seguite, quindi non è difficile trovare carni poco fresche in vendita e queste, non essendo altro che carcasse di animali, richiamano la stessa attività degli insetti che un cadavere. E noi siamo chiamati ad indagare non solo su quando la carne è infestata dagli insetti, ma quando proprio a livello della catena alimentare e di preparazione degli alimenti si è registrata la problematica. Quindi può essere un problema dovuto al macello, o ai frigoriferi, o ai trasporti, o ai rivenditori. E altre volte addirittura si passa proprio al problema degli allevatori o dei consumatori che magari hanno mantenuto male la carne o comunque gli alimenti. Tutte queste informazioni possono essere raccolte dagli insetti. Ma io come faccio a distinguere tra un insetto che è entrato nel mio frigorifero e uno che invece ha contaminato la carne poco dopo la macellazione? Prima di tutto è indispensabile capire la specie dell'insetto che ha infestato l'alimento. Da qui è possibile capire se un insetto presente nell'alimento è quello che tipicamente si nutre di quel tipo di alimento o se è stato trovato casualmente lì perché casualmente si è venuto a trovare. Per esempio può essere caduto da qualche parte, non che è andato a cercare l'alimento. Poi nei migliori casi si passa all'analisi del DNA o delle sostanze che si trovano nel contenuto gastrico stomacale, quindi degli insetti. Se i contenuti sono simili, sono identici al substrato in cui sono stati trovati, significa che si sono alimentati lì, che sono cresciuti lì, che quello era il loro substrato di vita. Ma se si trova altro contenuto è chiaro che probabilmente si tratta di una truffa ai danni di qualcuno. Grazie Paola Magni, buonasera. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chiara Albicocco, ciao. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Allora, qui sarebbe all'ordine del giorno che l'emotività delle donne a confronto con quella degli uomini è superiore. Sì, okay. Allora, lo dicevamo nei titoli, che le donne fossero più emotive, la ricerca ce l'aveva già detto. Ecco, Federico, ti dico subito che oggi ti daremo del filo da torcere per difendere la categoria. Io e la professoressa Alice Mado Proverbio, che dirige il laboratorio di elettrofisiologia cognitiva dell'Università Milano Bicocca. Intanto, buonasera professoressa. Salve, buonasera a tutti. Buonasera. Ho detto bene, daremo a Federico e al genere maschile il filo da torcere. Saremmo giusto? Meno emotivi. Insomma, un punto fermo l'avevamo già messo, dal punto di vista scientifico, dico. Cioè è stato dimostrato che le donne sono molto più emotive degli uomini. E questo molto è provato scientificamente, corretto? Sì, dunque è stato evidenziato come esposta, diciamo, uno stimolo emotigeno, come può essere per esempio la vista di persone sofferenti o comunque situazioni drammatiche, la donna è più emotiva in quanto si attivano insomma in misura più intensa delle regioni del cervello deputate appunto alla percezione delle emozioni, come per esempio l'amigdala e il cingolato, che danno questa sensazione psicologica appunto di sofferenza che noi proviamo alla vista di un'altra, di un nostro consimile in una situazione di stress o di dolore, che è basata anche sulla capacità di provare empatia, no? Di immedesimarsi negli altri. Ecco, queste risposte sono di gran lunga più intense nella donna e poi ovviamente dal punto di vista comportamentale si accompagnano a una tendenza maggiore a piangere o comunque a evidenziare anche a livello espressivo di provare un'emozione più intensa. Questo vale anche per le emozioni positive, non solo per quelle negative. Vabbè, ecco, sottolineiamolo. Ecco, ma mi scusi però, proprio per distinguere, sì. Il termine empatia significa in senso stretto la partecipazione a un dolore, a un male che si vede presente in altri, oppure nel suo caso invece, mi pare che da quello che lei ci dice invece è più estesa la definizione. Allora, il termine empatia si riferisce alla capacità di immedesimarsi negli altri, comunque. Quindi, non solo diciamo provare compassione alla vista della sofferenza, ma anche provare gioia alla vista della gioia altrui, quindi la capacità di immedesimarsi. Però si dice anche per esempio che le donne si spaventano più facilmente. Ecco, questa invece è l'emotività, cioè una reazione affettiva più intensa, che è diversa dall'empatia, no? L'empatia è associata all'interesse per gli altri. Invece l'emotività è il modo in cui una persona reagisce allo stress, alle emozioni, no? Ed è stato osservato che questa reazione, diciamo, più misurata nell'uomo è accompagnata da un'attivazione emisferica più ristretta, cioè si attiva solo un emisfero cerebrale nell'uomo e questo gli consente di avere l'altro emisfero, diciamo, non contaminato dalla reazione affettiva. Certo, Federico, vuoi dire qualcosa tua discolpa? No, perché essendo questa una trasmissione di scienze, ecco, noi usando sempre questo tipo di strumenti, alziamo le come braccia. Facciamo a dire okay, che è andata diversamente? Hanno fatto le indagini e i risultati sono infatti questi. Allora, il punto fermo sull'emotività l'abbiamo messo. Lei ha appena pubblicato un articolo scientifico sull'empatia, appunto, di cui ci diceva adesso. Se ci spiega quali sono stati i risultati e soprattutto come li avete raggiunti, cioè il metodo che avete utilizzato mi sembra valido. Siamo partiti dalla constatazione, diciamo, che i disturbi dell'empatia, come per esempio l'autismo oppure disturbi di personalità antisociale, hanno un'incidenza molto maggiore nell'uomo che nella donna, quindi da questa evidenza, diciamo, biologica, che c'è una differenza nei disturbi dell'empatia. Siccome l'empatia, abbiamo detto, la capacità di immedesimarsi ed è basata sull'interesse verso gli altri, verso la persona umana, ci siamo chiesti se fosse evidenziabile questa differenza nell'interesse per la persona umana, che possiamo chiamare interesse per stimoli sociali, diciamo, quindi interesse per la vista delle persone, fosse evidenziabile misurando l'attività bioelettrica del cervello. Questo è possibile mediante la registrazione dell'elettroencefalogramma e dei potenziali correlati ad eventi, che sostanzialmente sono indici dell'attivazione bioelettrica del nostro cervello quando noi, appunto, osserviamo degli stimoli. Gli stimoli che abbiamo presentato erano naturalmente immagini di persone rappresentate così nella loro vita quotidiana, che parlano, che vanno a fare la spesa, che accompagnano, che portano il cane a spasso, eccetera. E invece rispetto a degli scenari comuni, familiari, come case, scuole, uffici, strade, eccetera, privi di persone. Ecco, allora, facciamo un passo indietro. Avete utilizzato 24, chiamiamole così, cavi umane, 12 maschietti e 12 femminucce, esatto, a cui avete mostrato queste immagini. Studenti universitari, abbiamo insomma cercato di controllare lo status socioculturale, nel senso che fossero culturalmente, diciamo, comparabili, essendo tutti studenti universitari, e li abbiamo, metà uomini e metà donne, e abbiamo loro mostrato sul computer centinaia e centinaia di immagini ad alta risoluzione, a colori, molto ecologiche, insomma, abbiamo detto persone, rispetto a paesaggi privi di persone. Noi abbiamo chiesto loro di, diciamo, prestare particolarmente attenzione agli stimoli, in quanto volevamo osservare proprio il modo in cui il cervello, in modo del tutto automatico e inconsapevole, normalmente elabora le scene visive. E cosa ne è venuto fuori? Allora, è venuto fuori che i potenziali evocati dalla presenza di persone soltanto nella donna e non nell'uomo erano più di maggiore ampiezza in termini di microvolt su certe regioni cerebrali, che normalmente sono deputate appunto all'analisi del volto umano e del corpo umano, la cosiddetta face fusiform area, regione che analizza i volti, e extrasial body area, regione che analizza i corpi. Queste reazioni erano più intense nella donna piuttosto che nell'uomo. Oltre a questo, gli uomini mostravano un particolare interesse per le componenti, diciamo, del paesaggio spaziali, quindi paesaggi, mostrando l'attivazione di una regione che si chiama parahippocampal place area, cioè la regione dei posti, no? Quindi l'uomo era più interessato a questi aspetti spaziali. Inoltre la donna mostrava un'attivazione di tipo emotivo. Anche se le immagini non erano emotigene, la donna attivava regioni normalmente, diciamo, che si attivano normalmente quando proviamo un'emozione. Si emozionava lo stesso. Esatto, si emozionava. Anche se del tutto, diciamo, in modo del tutto inconsapevole, perché in realtà, ecco, il compito che veniva chiesto ai soggetti era quello di rispondere il più velocemente possibile alla comparsa di quadri astratti tipo Mondrian. Quindi il cervello femminile evidenziava questo interesse automatico. Comunque, ok. Ecco, non vi interessa l'arte. Ecco. Io no. Volevo chiudere. Ecco. E beh, da qualche parte. E da qualche parte ti devi difendere. Io volevo chiudere con una cosa. L'aspetto sorprendente è che questa attitudine, questa reattività delle femmine non è tipica solo della nostra specie, ma è anche per altri animali, cioè i macachi, anzi le macache, le cebe, si comportano come noi. Sì. nel senso che perché ovviamente per le persone umane c'è sempre il problema, no? Questa differenza se è di tipo culturale, no? Oppure di tipo biologico, mentre naturalmente per le scimmie e per i primati, se evidenziano un comportamento di maggiore interesse per i conspecifici, non è possibile che sia tramandato culturalmente, ma ovviamente deve essere biologico. E in effetti questi i primati evidenziano un interesse maggiore delle individui femmina per i propri conspecifici, che si manifesta sia come tendenza molto maggiore dei maschi a giocare con le bambole, a manipolare i piccoli, sia come maggiore comportamento empatico di fronte a individui in difficoltà. Quindi si può ipotizzare, diciamo, che questo tratto, no, si sia sviluppato nel corso dell'evoluzione degli ominidi, in quanto naturalmente più adattivo, perché teniamo sempre presente che per quanto vogliamo, diciamo, controllare gli aspetti biologici, le donne sono deputate alla procreazione, all'allevamento della prole, voglio dire, per cui è evidente che ci devono essere dei meccanismi cerebrali che assicurano un comportamento materno più efficace, no? Va bene, mi sembra che siamo stati esaustivi. Federico, hai qualche domanda, qualcos'altro da dire? Non ti interessa niente, sei una scimmia, guarda che abbiamo, cosa hai portato a casa. Grazie professoressa. Grazie a voi. Arrivederci. Buonasera. Devo parlarvi di organi, quelli che suonano maestosamente in tanti luoghi del nostro continente, l'Europa. Si tratta di chiese, tipicamente, e in Italia sono diversi migliaia. Per parlare di questo tema, il mio interlocutore questa sera è Dario Camuffo. Buonasera, Camuffo. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ricercatore del CNR di Padova all'Istituto di Scienza dell'Atmosfera e del Clima. E già questo istituto ci introduce, ne abbiamo parlato prima di questa intervista, in quello che mi sembra essere la cornice importante per discutere di questo problema degli organi, che appunto lei definisce come un ecosistema, avvisando subito i nostri ascoltatori che il problema è riuscire a preservare questo ecosistema, no? Infatti gli organi sono un ecosistema, un microcosmo, dove i piccoli, più piccoli cambiamenti di temperatura o di umidità possono causare danni incredibili, in quanto l'organo è di per sé un oggetto, un bene culturale tangibile, un'opera d'arte in molti casi, e ha in aggiunta la necessità di funzionare, di emettere dei suoni. Ora, l'organo si trova in una chiesa in cui può esserci o meno il riscaldamento, possono esserci affollamenti di persone, e l'organo quando suona ha un mantice, generalmente una stanza diversa rispetto a quella dove si trovano le canne e la console, e quindi abbiamo del trasporto di aria da un ambiente all'altro, abbiamo temperature diverse, i vari livelli, immaginiamo una chiesa per esempio a riscaldamento aria dove tutta l'aria va in alto. Noi abbiamo il problema che il legno può subire delle microcrepe o delle crepe vere e proprie a seguito degli stress microclimatici, ci vale a dire variazioni di temperatura e di umidità, oppure abbiamo anche un altro problema, che il legno di per sé emette delle sostanze acide e volatili, tipo acido acetico e acido formico, che si aggiungono ovviamente agli inquinanti atmosferici, ma la loro concentrazione può essere molto, molto elevata e intaccare le canne dall'interno. Mi pare che ci siano anche, visto che abbiamo a che fare con legni vecchi, un problema di quei famosi piccoli insetti abitanti di questi legni, no? Certo, gli insetti agiscono soprattutto in un ambiente caldo e umido, quindi le condizioni di microclima generale sono sempre molto importanti. Ambiente caldo e umido vuol dire anche sviluppo di muffe, quindi il legno ovviamente ne soffre moltissimo. Senta, noi parliamo di oggetti che hanno, per esempio, tra i più vecchi in Italia, quanti anni? Quello di San Petronio è stato fatto l'anno successivo alla scoperta dell'America. San Petronio a Bologna, Sì, sì, esatto, quindi sono vari secoli. Naturalmente i più numerosi tra gli antichi sono gli organi barocchi, ne sono moltissimi in Italia, organi poi riadattati nei secoli successivi, però il loro impianto è sempre di strutture antiche con legni provati e metalli a volte corrosi. Bene, con la vostra ricerca state praticamente piazzando sensori in vari punti di questi organi per capire come funziona questo ecosistema. Esatto, i sensori devono essere estremamente resistenti per poter resistere a un ambiente acido, devono essere estremamente piccoli per non alterare il flusso d'aria e quindi il suono quando gli organi sono in funzione, e quello che facciamo è monitorare l'acidità, misurare il microclima all'interno e all'esterno per vedere gli stress che vengono dati sia al legno sia al sinergismo per la corrosione, e quindi poter dare delle indicazioni di quando e come questo l'organo va usato, in che condizioni ambientali, e delle raccomandazioni ai restauratori di non usare per esempio legni di quercio, di noce, che emettono forti quantità di acidi. Acidi volati e organici, e di usare soprattutto legni molto stagionati. Insomma, come dice il Vangelo, non mettere toppe nuove un vestito vecchio, questa parabola va bene anche per gli organi. Dario Camuffo, grazie e buon lavoro. Grazie altrettanto a lei e a tutti gli ascoltatori, buona serata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Se adesso mi sentite è perché ci sono forze elettromagnetiche che vi fanno arrivare la mia voce attraverso la radio, ma mi sentite anche perché gli atomi del mio e del vostro corpo stanno insieme, ciò avviene perché ci sono delle forze nucleari. E poi c'è la forza gravitazionale, difficile andare in auto, no? Se questa galleggiasse con voi dentro in aria e ascoltare appunto la radio. Ma si può pensare che tutte queste forze siano riconducibili a una sola? Ascoltate Maurizio Menisi. Il traguardo più alto a cui punta la fisica da Einstein in avanti è la grande unificazione. Espressione forse un po' da fantapolitica, che cela però il tentativo di ricondurre tutte e quattro le forze note in natura, e quindi anche le equazioni che descrivono queste forze, a una sola forza fondamentale. Quindi a una sola equazione, che potremmo definire davvero equazione del tutto. La forza elettromagnetica e le due forze che agiscono all'interno dei nuclei atomici sono già state unificate. Sfugge solo la gravitazione, e su questa sono concentrati, infatti, gli sforzi dei fisici teorici e sperimentali. Ma perché la fisica va in questa direzione? Lo chiediamo a David Gross, premio Nobel per la fisica nel 2004. Dunque, Gross, perché i fisici ritengono che solo riunificando le quattro forze potremo affermare di aver compreso in profondità la natura dell'universo? Well, partly we just it's the lesson of history. Beh, un po' è la lezione della storia. Infatti direi che è a partire da Newton che i fisici cercano l'unificazione. Per Newton, la realizzazione di questo obiettivo, con il famoso esperimento della mela, consistette nel riconoscere che la forza che faceva cadere la mela dall'albero e quella che manteneva la Luna in orbita intorno alla Terra erano in realtà la stessa forza. E questa fu la prima unificazione. Maxwell, più tardi, grazie ai lavori di Faraday, capì che elettricità e magnetismo, fenomeni apparentemente del tutto diversi, erano invece manifestazioni di un'unica forza, l'elettromagnetismo. Questo fu il primo caso di unificazione di forze diverse. D'altronde, in un certo senso, tutta la scienza di base è una ricerca di principi semplici e costituenti semplici, capaci di spiegare una vasta schiera di fenomeni fisici differenti. Questo approccio riduzionista della scienza ha avuto grande successo in passato, e ancora oggi ci sono indicazioni che ci spingono in questa direzione. Una direzione che perciò dobbiamo seguire. E ancora una volta, credo che così facendo avremo successo. Credo cioè che riusciremo a trovare una teoria più essenziale e in un certo senso più semplice delle teorie attuali, che dimostrerà come le quattro forze conosciute siano in realtà una sola forza, La strada per arrivare a questo risultato è complicata e anche la teoria unificatrice per ora appare molto complicata, ma quando avremo una teoria definitiva sarà una teoria semplice. Ecco, dunque, proprio nel tentativo di sviluppare questa teoria, i fisici sono attualmente fortemente focalizzati sullo studio del vuoto. Tanto che lei spesso fa una battuta, dice che i fisici studiano il nulla e che quindi non stanno studiando niente. Infatti studiano proprio il niente. Ma perché? Well, it always was. We just didn't realize it. In some sense. Bah, forse è perché non ce ne siamo accorti. Scherzi a parte. Anzitutto dobbiamo partire dal fatto che tutte le particelle dell'universo sono in un certo senso piccole fluttuazioni, perturbazioni del vuoto. Parlo delle stesse particelle di cui siamo fatti noi, per cui si capisce che attribuiamo molta importanza a questi piccoli blocchetti di materia. Ma in realtà gli stessi atomi sono fatti in gran parte di vuoto e di particelle tenute assieme da forze che sono, a loro volta, piccole increspature di questo vuoto. Tuttavia, quando cerchiamo di indagare alcune proprietà nascoste, non ovvie, di queste particelle, vediamo che sono correlate al vuoto, a questo medium di cui non sono altro che piccole fluttuazioni. D'altronde, già nei primi fenomeni che sono stati esplorati, come appunto l'elettromagnetismo, fu chiaro che il vuoto giocava un ruolo molto importante, un ruolo attivo. Però scusi, i fisici hanno problemi col vuoto davvero da sempre. Hanno problemi a fare il vuoto, a crearlo in laboratorio. Veramente stavo pensando alla questione dell'etere, per esempio, quando per spiegare la propagazione della luce a fine 800 si era arrivati alla conclusione che lo spazio era pervaso da un mezzo che era contemporaneamente estremamente trasparente, estremamente rigido eppure impalpabile, insomma una discreta assurdità. Yes, so there's a good example where people indeed. Sì. In effetti direi che è un ottimo esempio del tentativo dei fisici di attribuire delle proprietà al vuoto. È così, è vero. Il vuoto ha una storia molto lunga. D'altronde non c'è nulla di strano. Il vuoto è il background, il palcoscenico su cui il gioco si svolge. E per capire il gioco bisogna prima capire il campo di gioco. Ecco, quello che stiamo imparando però è proprio che la vecchia concezione di spazio come una specie di palcoscenico immutabile, per così dire neutrale rispetto ai fenomeni fisici, ecco, questa concezione non regge. Non sappiamo ancora con quale nuova concezione dovremo sostituirla, ma le chiedo, in che senso la vecchia idea di spazio non sta più in piedi? I wish I knew. I mean, space and time are very complex. Magari lo sapessi. Vede, spazio e tempo sono fenomeni molto complessi. Impieghiamo circa 2 anni a metabolizzare il senso dello spazio, da bambini, a costruirci un'idea mentale di cosa sia lo spazio. È un'impresa molto difficile, perché in realtà noi non sperimentiamo lo spazio direttamente. Direi anzi che lo spazio è il primo esempio di modello fisico, un modello che ogni essere umano ricostruisce da zero, per se stesso, a partire dalle proprie percezioni. D'altronde ogni bambino deve necessariamente costruirsi e imparare a manipolare un modello mentale dell'universo in cui vive, o non potrebbe nemmeno fare le cose più ovvie, come camminare. Di questo modello fa appunto parte lo spazio, il quale è di sicuro un concetto molto utile, un concetto che ci aiuta a descrivere l'universo. Ma questo non significa assolutamente che debba sottendere una realtà fisica. Ciò che ormai ci è chiaro è che il modello di spazio di cui disponiamo è un buon modello per descrivere gli oggetti macroscopici, ma quando proviamo a usarlo per descrivere strutture microscopiche, a scala molto, molto piccola, non funziona più. Quindi c'è per forza qualcosa di sbagliato. Una delle difficoltà è che questi fenomeni microscopici di cui parlo non sono osservabili direttamente. Servono esperimenti molto complessi e comunque si deve ricorrere a osservazioni indirette. Ma credo che alla fine sapremo rispondere a questa domanda. Quale sia, cioè, il modo corretto di descrivere i fenomeni a scala molto piccola? Il sospetto è che il modello di spazio che ne verrà fuori, il più naturale per descrivere l'universo su scala microscopica, sarà molto diverso da quello che usiamo attualmente per descrivere il mondo macroscopico. Dalle ricerche astronomiche questo mese ci sono arrivate le prime foto di pianeti al di fuori del nostro sistema solare. Di questo e di come possono essere studiati questi corpi celesti, che a noi ovviamente interessano molto perché, insomma, lo sappiamo, cerchiamo altra vita, vi parla ora Chiara Albicocco. Immaginate una ciambella di luce, cioè un alone luminoso di colore rosso con al centro una macchia nera. Ecco perché l'idea della forma della ciambella. Questa è l'immagine che Hubble, il telescopio spaziale, ci ha inviato gli scorsi giorni. Il soggetto ritratto è l'alone di materia che circonda la stella Fomalhaut e il buco nero centrale è il filtro utilizzato per coprire la stella, cioè il corpo centrale più luminoso. In questo modo è possibile scorgere bene l'alone, se no la luce della stella sarebbe troppo forte e coprirebbe tutto. Ecco, a questo punto, ingrandendo l'immagine di questa ciambella, in una porzione dell'alone luminoso è possibile scorgere un punto più luminoso. E questa che cos'è? È l'immagine del primo pianeta extrasolare. Ed è stato battezzato, in onore della sua stella, Fomalhaut B. Questo corpo orbita all'interno di un'ampia fascia di polveri che costituisce appunto l'alone che si vede nell'immagine. Per vedere l'immagine, se volete, potete andare sul nostro sito www.moebiusonline.eu e nella pagina appunto lì dedicata trovate tutte le immagini. Dicevamo che è la prima volta che otteniamo la foto di un esopianeta e teniamo presente che l'esistenza di questi pianeti fuori dal nostro sistema solare è stata dimostrata per la prima volta soltanto nel 1995 e le tecniche fino ad oggi utilizzate per rilevarli erano indirette, cioè utilizzavano anomalie gravitazionali indotte dal pianeta sulla stella e questi metodi permettevano di identificarli, misurarne anche la massa e le orbite, ma mai di avere un'immagine come quella che Hubble nei giorni scorsi ci ha fornito. Giovanna Tinetti, che è astrofisica presso l'University College di Londra, ci accompagna alla scoperta di questi corpi celesti, così misteriosi ma così affascinanti. Ecco, innanzitutto vogliamo capire chi sono, o meglio, che cosa sono i pianeti extrasolari, detti anche esopianeti. Gli esopianeti sono dei pianeti che orbitano stelle diverse dal nostro Sole, quindi questa è un po' la loro definizione. Dove si trovano? Si trovano secondo un po' tutti, un po' dappertutto, però per il momento quelli che sono stati davvero scoperti sono più o meno 300 o più di 300 e chiaramente siamo limitati a vedere stelle nelle vicinanze del Sole, quindi per il momento quelli che abbiamo scoperto sono a distanze di un centinaio di anni luce a occhio e croce. Immagino che ci sia una forte difficoltà a studiarli dalla Terra. Chiaramente enorme, non per niente si è dovuto aspettare il 1995 per vederne uno. È stata la prima volta che se ne è osservato uno? Sì, è stato osservato dal gruppo dell'Osservatorio di Ginevra di Majorek e Lotz e prima erano sicuramente, c'erano predizioni teoriche sulla loro esistenza, però è chiaro che una cosa è fare la predizione teorica e una cosa è veramente fare l'esperimento e capire che ci sono. Gli esopianeti sono più di 300 e il loro numero cresce di giorno in giorno, non perché se ne formino di nuovi, ma perché sempre più ricercatori li stanno osservando. Ecco, c'è chi osserva la loro esistenza, chi le loro posizioni, le masse, ma anche chi, come appunto la dottoressa Tinetti, si occupa della composizione della loro atmosfera. Su alcuni di loro, direi una decina, abbiamo già informazioni sulle loro atmosfere, quindi queste forse sono le ricerche più nuove e forse anche più promettenti, direi, per il futuro. Per una classe di oggetti che vengono chiamati Giovi caldi, quindi dei pianeti simili a Giove che orbitano molto vicino alla loro stella, quindi delle grosse palle molto calde, direi. Quindi si presuppone che anche l'acqua sia in formato gassoso? Assolutamente. Abbiamo in effetti rilevato la presenza di acqua, in particolare questo è stato fatto da me e un gruppo di collaboratori nel 2007 e poi nel 2008 abbiamo invece rilevato il metano sempre in atmosfere di questi giovi caldi. Chiaramente vorremmo poter ripetere questi esperimenti su pianeti più abitabili e più simili alla Terra in futuro. Ecco, volevamo arrivare a questo. Cosa significa avere un pianeta abitabile? E un pianeta extrasolare abitabile sarebbe veramente il massimo. Uno comincia a cercare i pianeti abitabili nelle zone abitabili, ovvero dove non fa troppo caldo, dove non fa troppo freddo e per intenderci dal punto di vista chimico dove l'acqua può esistere allo stato liquido. Per il momento abbiamo degli oggetti in zone abitabili, ma non ancora pianeti rocciosi terrestri simili alla Terra in zona abitabile. Ovviamente in questo scenario in cui la ricerca fa passi da gigante quotidianamente e nell'ottica che alcuni di questi pianeti potrebbero veramente essere abitabili, ci chiediamo come si muoverà in futuro la ricerca astronomica su questo fronte. Il primo grosso miglioramento avverrà con la nuova generazione di telescopi spaziali della NASA e dell'ESA, in particolare il James Webb Space Telescope, che è previsto per intorno al 2014-2015. Poi interessantissimo invece il progetto, quello che si chiama New World Observer. Ecco, ci può parlare anche di questo, che mi sembrava più fantascienza, ma in realtà lei ci ha spiegato che è il più realizzabile, quasi il più realizzabile. Ma sì, questo è un progetto nuovissimo che è venuto fuori negli Stati Uniti da poco, nel 2006 è stato l'articolo di Nature di Webster Cache. Io lavoro questo progetto e in effetti questo è il più realizzabile per il tipo di pianeta simile alla Terra. Detto questo, è ancora in versione di studio e quindi non si parla prima del 2018-2020, bene che vada. Quindi però ci descrive un attimo come funziona, perché è veramente affascinante. Allora, c'è un telescopio spaziale di base che tipicamente può essere di qualsiasi diametro, ma consigliabile almeno 4 metri. E poi sostanzialmente uno mette questa maschera occultatrice, quindi un enorme ombrello con un diametro all'incirca di una cinquantina di metri, a una serie di chilometri di distanza, anzi molti chilometri di distanza rispetto al telescopio. Questo ombrello, quando vengono lanciati il telescopio e l'ombrello separatamente, questo perché almeno se uno dei due si va a sfracellare l'altro non rimane in vita, quindi insomma non mettere tutto nella stessa barca. L'idea è che poi questo ombrello dovrebbe aprirsi proprio come un ombrello e dovrebbe mascherare la luce stellare, quindi così uno si può concentrare direttamente solo su un pianeta. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sì, è vero quanto dicevamo nei titoli. Quando si parla di innovazione tecnologica nel nostro paese emergono non poche contraddizioni. Siamo al terzo appuntamento con le interviste promosse dalla Fondazione Cotec, un centro che appunto si è impegnato in ricerche e riflessioni sui processi innovativi. Barbara Gallavotti in questo servizio, bene, ascoltate la parte proprio da una delle contraddizioni cui prima accennavo. Ci sono cose di cui nessuno ha il coraggio di negare l'importanza. L'innovazione tecnologica è sicuramente una di esse. In Italia economisti, politici e naturalmente gli scienziati sono tutti d'accordo sul fatto che comunque debba essere realizzata. Allora perché, se tutti la vogliono, nel nostro paese rimane forte e netta la percezione che una vera innovazione non si riesca a fare? Forse uno dei punti di maggiore disaccordo riguarda il ruolo che deve avere la ricerca di base nella creazione di innovazione in Italia. Ne parliamo con due ospiti. Cristiano Antonelli, professore di economia all'Università di Torino. Buonasera. Buonasera. E Mario Calderini, presidente dell'Agenzia di Sviluppo della Regione Piemonte e docente di strategia dell'innovazione al Politecnico di Torino. Buonasera. Buonasera. Entriamo subito nel vivo del problema con una domanda di base. Cristiano Antonelli, a suo avviso in Italia si fa abbastanza innovazione? Abbastanza, forse non sarebbe mai abbastanza, no? Non ce n'è mai troppa, quindi se ne vorrebbe sempre di più, questo è fuori di dubbio. In realtà la mia opinione è che la capacità di innovare del sistema italiano sia molto superiore a quanto è normalmente percepito e soprattutto riportato dal sistema, insomma, dei mezzi di comunicazione. Mario Calderini è d'accordo con questa affermazione? Certamente sì, in particolare sull'ultima parte, cioè il fatto che ci sia una capacità che non è misurata. Devo dire a questo proposito che noi abbiamo però una misurazione diretta che appunto ci dice che stiamo messi male e purtroppo sempre peggio. E inoltre, tra le tante cose, l'unica misura che veramente conta è il fatto che il paese non cresce, e questa in fondo è la vera misura del fatto che evidentemente c'è qualche problema nella prestazione innovativa. Chi è che fa innovazione in Italia? Antonelli ha detto che c'è più innovazione di quella che percepiamo. Allora, io credo che gran parte del dibattito possa tranquillamente essere semplificato. C'è una scuola di pensiero per la quale dunque l'innovazione viene fatta in primo luogo laddove si produce scienza, e dalla scienza inesorabilmente l'innovazione scaturisce. E c'è una seconda scuola di pensiero per la quale invece l'innovazione è il prodotto di un processo molto più bottom up, molto più radicato nel fare e nel produrre, e con una componente, diciamo, di attenzione alle caratteristiche della domanda molto superiore. Sono due modi di pensare l'innovazione molto differenti, ci si potrebbe accapigliare a lungo. Io personalmente propendo per la seconda ipotesi. Quindi innovazione è qualcosa che viene dal basso in alto, bottom up, lei ha detto, una qualcosa che viene richiesta dalla società produttiva, dal mercato. Mario Calderini, lei è d'accordo con questo ruolo della ricerca importante, sì, ma tutto sommato secondario rispetto alla capacità poi di saperne approfittare in qualche modo? È possibile avere innovazione in un paese che non produce una grande quantità di idee che poi servono da base per l'innovazione? Sì, credo che non si possa rinunciare a una comunità di persone che fanno ricerca di base, perché questo consente appunto di esplorare e sfruttare molto meglio. Credo anche però che immaginare che il nostro paese, nella ricerca pubblica e privata, possa produrre conoscenza di base in misura rilevante per sostenere la competitività industriale mi sembra totalmente irrealistico. Piuttosto bisogna trovare dei modi di accedere alla conoscenza prodotta altrove. Questa è anche l'opinione di Cristiano Antonelli? Ma sicuramente per quanto riguarda il fatto che la pratica della produzione di conoscenza di base sia indispensabile per generare conoscenza, per generare innovazione nell'altro senso che io ho cercato di rappresentare prima, sono totalmente d'accordo. Ci sono però una serie di appunti e precisazioni che sento il dovere di fare. Allora, la prima, vorrei che non si dimenticasse che le spese della pubblica amministrazione in attività di ricerca e sviluppo, ovvero in buona sostanza l'apparato di ricerca universitario e degli istituti di ricerca pubblici, in Italia è sostanzialmente molto vicino ai valori britannici del Regno Unito. Secondo, vorrei che si ricordasse che la produttività scientifica pro capite misurata dalle riviste censite online da un sistema che si chiama ISI, dimostra senza ombra di dubbio che la produzione scientifica pro capite dei ricercatori italiani è molto superiore a quella britannica. Noi siamo in presenza di alcune affascinanti contraddizioni. Per un verso, la revisione unilaterale, credo di ricordare con due voti di maggioranza, della Costituzione, il titolo quinto, ha regionalizzato la responsabilità politica e conseguentemente finanziaria della attività di ricerca e sviluppo in Italia. È evidente che aver regionalizzato la politica della ricerca significa aver intenzionalmente eliminato ogni capacità di coordinare su scala nazionale lo sforzo di ricerca. Questo paese si è deliberatamente e intenzionalmente privato della capacità di organizzare un piano nazionale di ricerca in qualche cosa, dipenderà poi dalle contingenze, ha deciso di frammentarlo in 20 regioni. Se si dà peso e valore al fatto che nel paese ci sono queste capacità di alimentare un flusso di piccole innovazioni con un forte contenuto tecnologico più che scientifico e più di sapere implicito e tacito che di conoscenza scientifica, io credo che la scelta di regionalizzare, per così dire, la politica della ricerca non sia completamente sbagliata. Certo che bisogna evitare che le regioni pretendano, ce ne sono alcune, costruire il proprio acceleratore universale. Mario Calderini, è d'accordo su questa ipotesi che dice l'Italia è al massimi livelli nella produzione scientifica mondiale, ben migliore di quelli dell'Inghilterra, pur tuttavia occorre fare delle scelte e in qualche modo indirizzare la ricerca di base? Il fatto che l'Italia sia su elevatissimi livelli di produzione scientifica è difficile non essere d'accordo, perché è oggettivo, è misurato con delle tecniche molto, molto serie e peraltro concordi. In realtà appunto da questo emergono due cose. La prima è che manca la quota parte, io non so se di investimento in ricerca di settore privato, dico una cosa più semplice ma forse più grave, di interesse genuino del settore privato nella conoscenza prodotta. D'altra parte però credo anche che appunto il nostro sistema abbia dei pezzi di grandissima eccellenza, e però questo fa sì che larghissima parte del nostro sistema della ricerca sia sovrafinanziato, per non dire inutilmente finanziato, rispetto alle proprie possibilità di produrre buona ricerca, mentre una piccola parte è spaventosamente sottofinanziata. Grazie a Cristiano Antonelli e a Mario Calderini. Grazie a lei. Buonasera. In questa puntata abbiamo già parlato di indagini poliziesche, collegandole alla presenza di insetti nei casi giudiziari. Ritorno sul tema, non sugli insetti, dicendo che un elemento essenziale nei gialli, veri o inventati che siano, è sempre quello delle impronte digitali. Dall'Inghilterra allora arriva una notizia che per gli Sherlock Holmes di tutto il mondo potrebbe essere una svolta, nel senso che magari perdono il lavoro. Un gruppo della Università di Leicester pare abbia messo a punto un sistema per recuperare le impronte digitali anche quando queste sono state rimosse, come si vede spesso con la classica passatina di straccio da maniglie, rivoltelle e bicchieri. E questa nuova tecnica è stata sperimentata, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, tuttavia è stata sperimentata in un caso reale che 2 anni fa ha scosso molto l'opinione pubblica inglese. Una donna di 68 anni uccisa nella sua casa da qualcuno che deve avere suonato alla sua porta e che lei quasi sicuramente conosceva. Aspetteremo nei prossimi giorni conferma appunto di questa nuova tecnica. Siamo in conclusione della nostra puntata. Vi segnalo una cosa che mi sembra molto interessante. Andate al nostro sito www.moebiusonline.eu e nella sezione Multiscienza troverete una scheda intitolata Quando si iniziava a parlare di Mr. Sun, Mr. Sole. Siamo intorno alla metà degli anni 50 del secolo scorso e le potenzialità dell'energia solare iniziano a farsi vedere nelle attività di ricerca. I prestigiosi Bell Laboratories negli Stati Uniti dedicano un documentario a questo tema, affidando la regia, pensate, a Frank Capra, prestigioso autore della cinematografia degli anni 30 e 40, che tuttavia in quel periodo, intorno al 1955-56, sembra non trovare più buone ispirazioni. Ma Capra ha alle sue spalle anche una lunga esperienza di documentarista e quindi ecco che appare, si impegna in questo documentario Mr. Sun, dedicato appunto alle prime tecnologie per trasformare in elettricità la radiazione solare. Non è interessante per leggervi particolari messaggi registici, ma il contenuto è estremamente affascinante, soprattutto quando si parla di futuro. Il filmato ha uno stile molto immediato, utilizza in parte cartoni animati, usa dialoghi che miscelano toni divertenti a divulgazione scientifica. C'è uno scienziato, c'è un giornalista che dialoga con questo scienziato. Il suo significato comunque oggi è essenzialmente di tipo storico. Fra qualche decennio, quando probabilmente, speriamo di non essere troppo ottimisti, le energie alternative e pulite saranno ampiamente diffuse, questi documenti rappresenteranno proprio l'inizio di una delle maggiori trasformazioni nella storia dell'umanità. Vi ricordo allora la scheda è intitolata Quando si iniziava a parlare di Mr. Sun. Questo è tutto per questa puntata, buona serata a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.